Benvenuti a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati sull'87.9 in FM. Potete ascoltarci in streaming sul sito della radio www.ondarossa.info. Un saluto particolare va a tutti coloro e a tutte coloro sono private della loro libertà personale. Tracce di Cinema oggi abbandona la sua consueta struttura monolitica e si parlerà di musica. Mi pare di aver capito che si parlerà forse un po' meno di cinema, ascolteremo tracce molto belle che ci condurranno in un viaggio esotico che partirà dal libro di Francesco Adinolfi che cita anche il nostro ospite di cui vi sto per dire qualcosa. E ti dico viaggio esotico perché il titolo della puntata di oggi, annunciato dal nostro Federico sulla nostra pagina Facebook, è proprio Exotica 01, quindi premetto che ci saranno anche altre puntate, non vedo l'ora. Il nostro ospite Luciano Levrone, nome d'arte, se posso permettermi di dire così, è Luzi L, DJ e musicologo di fama internazionale, ci descriverà questi panorami speciali con le sue scelte musicali e con le sue considerazioni su questo mondo tutto da scoprire e da esplorare. Cominciamo? Ok, va bene. Avevamo detto di cominciare esattamente da Mondo Exotica di Adinolfi per darvi un riferimento, visto che la vostra, come è giusto che sia, una trasmissione divulgativa che dà riferimenti all'ascoltatore per ampliare le proprie conoscenze. Mondo Exotica e Francesco Adinolfi sono un grande punto di riferimento per la parte musicale che andiamo ad affrontare, che è quella all'inizio degli anni 50 che si sviluppa negli Stati Uniti in conseguenza di un fenomeno sociale che non era mai esistito, ovvero c'era il boom economico, ma non solo. Per la prima volta molti uomini non si sposavano, non mettevano su famiglia e quindi avevano un eccesso di disponibilità economica da spendere in dischi, cultura, oggetti, design e di tempo, perché ovviamente avevano tempo libero così. È stato nobilitato al pari del trash cosiddetto in Italia in maniera esagerata e spesso senza sapere bene di cosa si parlasse. In realtà, come molti fenomeni rivalutati a distanza, se li analizziamo nel momento in cui sono accaduti, non c'era tutto quel contenuto che gli si vuole. Un po' faccio il paragone col trash perché si vedono spesso cose un po' buffe, no? Nel senso, B-movies che devono, se erano B-movies erano B-movies, stavano bene, non così sono capolavori incompresi, non c'era nulla di incompreso, erano così, con l'Exotica siamo in presenza di un fenomeno assolutamente commerciale, sì, di un'industria musicale che doveva sfruttare ancora di più le sonorità dell'epoca, non potendo ovviamente, poiché poco o tanto erano più o meno tutti rivoluzionari, dal rock and roll fino al beat degli anni 60, i testi che anche quelli che a noi oggi possono sembrare facili o anche superficiali, erano comunque cose mai viste per l'epoca. Anche il fatto che per esempio fosse fortissima la presenza femminile o che ci fossero gli artisti di colore, che oramai erano, come tutti saprete, insomma, no? Il passaggio che c'è stato con da Chuck Berry in poi, in cui non era, insomma, per farla breve, una cosa rivoluzionaria. Come fare i soldi anche con i genitori dei figli tra virgolette rivoluzionari? Togliendo i testi, edulcorando le sonorità, rallentando di molto i ritmi e inserendo strumentazioni orchestrali e quindi delle rivisitazioni, alcune assolutamente ridicole in cui non c'è niente da rivalutare ed altre invece di grande livello, poiché eseguite da direttori d'orchestra, orchestre, anziché combo con miriadi di percussionisti o strumentisti eccezionali che si dedicavano a una cosa totalmente artificiale, artificiosa, però avevano il talento talento musicale, del talento tecnico, e quindi alla fine il risultato spesso è pregevole. Insomma, basta non volergli dare tutti i contenuti che gli hanno voluto affibbiare dopo, e rimane un'epoca musicale che andrebbe ascoltata e nel giusto modo rivalutata. Con cosa vogliamo cominciare? Cominciamo con il padre putativo di tutto questo discorso, che è Martin Denny, ovvero un signore di cui parleremo dopo. Che traccia? La traccia mettiamo esattamente, ce ne avremmo tante comunque, mettiamo Bangkok Cockfight, una battaglia di galli a Bangkok. Bene, bene, avevamo detto che vi avremmo parlato dopo del brano che abbiamo ascoltato. Era Martin Denny, un compositore che si dedicò a riprodurre le sonorità di civiltà lontanissime e sconosciute, e proprio per questo affascinanti per il pubblico medio statunitense. Poiché, un piccolo inciso facciamo, gli Stati Uniti tutto sommato sono un'isola enorme con centinaia di milioni di abitanti, ma pur sempre un luogo isolato, ancora di più poi nelle parti interne, dove qualsiasi cosa, specialmente negli anni 50, poteva apparire esotica, soprattutto appunto in un paese dove tutti parlano la stessa lingua, mangiano le stesse cose, basta poco per avere il fascino dell'esotico, diciamo così, no? E soprattutto non stiamo parlando ovviamente di New York o San Francisco, le grandi città, ma di tutto il resto del paese, e in un'epoca in cui viaggiare era sicuramente un privilegio ancora riservato a pochi fortunati. Il nostro Martin Denny, comunque, come Les Baxter, Esquivel e molti altri nomi che citeremo in seguito, non aveva mai visitato quei luoghi, ma divenne il creatore, o comunque uno dei creatori, di dischi che descrivevano, con strumenti fino ad allora sconosciuti, ambienti ed atmosfere totalmente posticce, finte, diciamo così, ma assolutamente credibili. Una sorta di Emilio Salgari della musica, per usare un esempio semplice e italico. Nemmeno il buon Emilio aveva mai visto una tigre o una giungla, però chi lo ha letto ha capito perché, per i suoi primi lettori di tantissimi anni fa, quei libri possono aver rappresentato una finestra su mondi sconosciuti, una specie di quark dei tempi in cui la televisione doveva ancora arrivare. Arrivarono strumenti mai ascoltati, l'ukulele, gong, percussioni di ogni tipo, ma veramente di ogni tipo, bonghi alti 2 metri, qualsiasi cosa, conchiglie, anziché, come si chiama quello, il triangolo, che poi diventa famoso con Tubular Bells? Timpano. No, il timpano, no. È una percussione. Vabbè, il triangolino, sì, vabbè, dai, insomma, sonagli, cose, il tutto, e nonché schiere di persone che facevano versi di animali, uccelli, eccetera. E, no, è vero, come abbiamo ascoltato pure nel brano prima. E quindi, insomma, li portavano nella giungla anziché in altri luoghi esotici, diciamo. Infatti, si chiamava, è stata chiamata anche Jungle Music, ovviamente non la dance degli anni 90, orribile, ma quella che ad occhi chiusi ti poteva portare nel bel mezzo di tribù lontanissime, affascinanti e sconosciute, come l'ascoltatore medio di cui parlavamo precedentemente non vedeva l'ora di avere. Evidentemente avevano individuato un filone, avevano individuato un filone commerciale, una cosa che poteva interessare l'utente medio, anche perché, come dicevamo prima, a questo poi questo fenomeno poi si lega non soltanto a livello commerciale, non soltanto la musica, ma gli arredi, le statue da mettere in giardino. Non è sembra una cosa buffa, ma è così. Cominciarono ad apparire statue tiki ovunque. Ovviamente l'americano medio non sapeva nulla di quelle culture, era così una cosa estetica, una fascinazione, e cominciarono ad aprire. I primi furono a Las Vegas e poi aprirono in tutti gli Stati Uniti bar, cocktail bar di altissimo livello, e si ispiravano a quelle ambientazioni, no? Quindi li trasformavano in dei tiki lounge, arredavano il tutto in quel modo, usavano superalcolici fatti arrivare veramente dai luoghi d'origine, creavano cocktail eccetera eccetera, da cui poi appunto il discorso che affronteremo dopo della cocktail music. Oh, per esempio su Martin Denny una delle prime tracce che mi viene in mente è Misirlu, che secondo me è una delle sue migliori, nelle migliori versioni, che poi è arrivata poi nuovamente al grande pubblico grazie a Tarantino, una versione velocizzata, però insomma mi ricordo di quella di Martin Denny all'epoca, insomma era notevole. Sì, quella che ha usato Tarantino era l'originale. E Misirlu, un brano surf arrembante, strepitoso, che abbiamo conosciuto tutti, che però ha origini piuttosto antiche. Che ha origini antiche, e come hai detto giustamente, Martin Denny ne fa un'interpretazione di grande livello. Infatti, anche se la maggior, non tutti, comunque moltissime di questi dischi spesso sono di cover, brani di cover, non gli si renderebbe giustizia chiamandole cover, perché noi oramai associamo alla parola cover questi poveri disgraziati che vanno nei club a rifare per 100 euro, per 50 euro col gestore dall'accento aspirato, e, no? che bada solo alla lira, fanno le cover, e quella è una cosa. Martin Denny e tantissimi altri reinterpretavano, e quindi cambia completamente il ritmo, cambia completamente la strumentazione, e si può dire che sono delle esecuzioni, insomma delle libere interpretazioni, all'interno del quale, come dicevamo prima, molte magari erano veramente troppo, si capiva che erano state fatte solo per sull'onda di questa cosa per fare i soldi, e quindi erano banali, ma quelle di Martin Denny, come tante altre, erano belle, comunque erano delle riletture, soprattutto o le rallentavano moltissimo per fare atmosfera, oppure le rileggevano in una chiave ballabile, fosse mambo, cia cia cia, che anche lì poi c'è tutto un discorso di fascinazione esotica, anche per quello, perché non così lontana, non così tanto sconosciuto, ma comunque per l'epoca pure il Brasile, l'Argentina, il Cile, il Perù eccetera eccetera rappresentavano comunque mondi sconosciuti. Come proseguiamo? Proseguiamo con lo strumento principe di queste cose. Citiamo almeno un film, a qualcuno piace caldo, una scena bellissima quando Tony Curtis dice a Marilyn Monroe, le chiede se si intende di borsa, perché lui si atteggia a, come tutti ricorderemo, insomma, no, a grande finanziere, e lei, candida come sempre, risponde no, di ukulele. Bene, abbiamo ascoltato uno dei mille brani che avremmo potuto ascoltare di ukulele. Se volete più tardi ce ne ascoltiamo un altro. Questa è una versione molto rilassata, ma sono esistite addirittura orchestre di ukulele con 40-50 elementi, delle cose demenziali. Magari poi pubblicheremo sul Facebook della trasmissione qualche link, così vi divertite un po'. Assolutamente, assolutamente. L'ukulele ci ha fatto pensare, appunto, la suggestione era stata quella del film di Billy Wilder del 1959, A qualcuno piace caldo, con naturalmente Marilyn Monroe, Tony Curtis e Jack Lemmon. Billy Wilder ha avuto dei grandi successi per quanto riguarda i suoi film e anche per quanto riguarda una certa intuizione dal punto di vista musicale. Infatti, insomma, è stato con mi pare Black Edwards, vero Luciano? Sì. Hanno insomma lavorato spesso insieme, sì, nei loro film, e poi ne parleremo anche forse dopo un pochino di Black Edwards, perché avevi selezionato anche qualcos'altro suo, mi pare, di Black Edwards, no? No, oggi no. Ok, allora niente, mi pare che siamo a posto così, possiamo continuare con la musica. Siamo a posto così, il buon Federico prima ha citato Miserlo e quindi cambiamo scaletta e mettiamo qualcosa di più agitato, perché mi rendo conto che vi stiamo facendo addormentare. Insomma, mandiamo una traccia assolutamente esotica, perché ascolterete tra rumoristica e vocalizzi, insomma è totalmente esotica, ma è abbastanza furiosa, diciamo, sulla linea di Miserlo, ecco. Dunque, loro sono i Continental Cousins, i cugini continentali, che ci fanno ascoltare Canacapila. Canacapila, avete capito insomma di cosa stiamo parlando? Di cose veramente inesistenti che però hanno il loro perché, o no? A voglia, quasi non qua. La conoscevo, notevole. Grazie, bene male, abbiamo fatto qualcosa di nuovo. Allora, senti, questa è legata a pellicole o comunque l'atmosfera di un periodo? Ecco, hai fatto una bella domanda. Sì, fatto una bella domanda, avrebbe detto Antonio Rezza. Cioè, nel senso, alcuni di questi brani sono stati usati successivamente da film, alcuni venivano commissionati come colonna sonora ed altri, come poi succede anche adesso, no? Per gruppi come per esempio la batteria o i Calibro 35 e tanti altri come loro anche in altri altri generi musicali, compongono e suonano una musica che è totalmente cinematica. Cioè tu hai un concerto, ascolti un disco della batteria o di gruppi, diciamo così, potrebbe benissimo essere la colonna sonora di un film che non hai visto, ma è completamente cinematografico, no? E quindi, diciamo, come la definiscono molti, è anche una musica cinematica, perché tra i tanti immaginari, prima abbiamo parlato degli immaginari, diciamo, esotici, eccetera, eccetera, ma c'è anche questo aspetto che comunque richiama magari ti ricorda un film che hai visto, la colonna sonora non era esattamente quella, ma le atmosfere poi alla fine erano quelle. Non daremo oggi dei titoli specifici, magari se poi li vogliamo mettere sulla pagina della trasmissione, sempre per proseguire il discorso di prima, dei link, così, perché c'è stata una produzione veramente molto grande di film legati a queste cose qua. Io sinceramente che prima abbiamo citato A qualcuno piace caldo, io parlavo di Black Edwards, e anche In colazione da Tiffany, comunque, anche se poi il brano simbolo del film non ha forse queste sonorità così esotiche, però comunque c'è qualcosa di esotico nella canzone famosissima che canta Audrey Hepburn, no? E anche tu si è fatta una bella domanda. No, è vero, perché no, era perfetta la domanda, perché la colonna sonora, il film che hai citato, l'ascolteremo, ne parleremo nella prossima puntata. Oggi non ci siamo detto, però è totalmente, sono comunque a un paio di anni di distanza l'uno dall'altro, quindi comunque le sonorità, esatto, sì, la domanda era anche se poi erano strutture diverse, narrative, sì, eccetera, però comunque l'influenza c'era sempre, perché di poi alla musica. Fine l'immaginario è quello, no? È un po' come dire dal punk alla new wave, cioè, voglio dire, i maniaci della musica tendono a dividere tutto per date, per epoche, così, ma in realtà poi quando perché le analizzano a decenni di distanza, e quindi gli piace vedere tutto bello separato, no? Mentre invece nel momento in cui etichettato nel momento in cui accadono queste cose, sono molto una parente dell'altra, una contamina l'altra, e infatti, come hai detto te, La colonna sonora di Colazione da Tiffany è totalmente, cioè è molto influenzata da questo. Non a caso è stata composta da Henry Mancini, noi sì, diremmo. Sì, poi magari dopo diciamo Mancini, qualcosa. Altro grandissimo. Esatto, quando parliamo di Henry Mancini, però parliamo di un livello superiore, cioè quello che Martin Denny, Les Baxter, questi che abbiamo ascoltato fino adesso e che ascolteremo, sono stati, diciamo, i capofila di quel movimento, ma sono sicuramente inferiori, nel senso che quello lo hanno fatto e lì rimangono, diciamo così, brutalmente. Henry Mancini però hanno lasciato un bel segno, Luciano. Sì, però Henry Mancini a livello di Morricone, a livello di dei grandissimi. Henry Mancini, tra l'altro, la colonna sonora, c'è una lettera che potremmo, magari la citiamo come chicca, la leggiamo la prossima volta, di ringraziamento del regista e di Audrey Hepburn a lui, dopo che ha consegnato, insomma, le musiche, perché erano rimasti estasiati. E tra l'altro Moon River, che ascolteremo in versione Latin, proprio per tornare al discorso a cui hai fatto cenno, è uno dei brani più reinterpretati della storia della musica, vero. Dimostrazione di quanto poteva essere bello. Sì, andiamo con la prossima. Andiamo con la prossima e ascoltiamola e poi ne parliamo. Les Baxter. Les Baxter era il secondo nome che avevamo citato dopo Martin Denny nella introduzione della puntata di oggi. Questa era Calcutta, infatti, come tutti avrete notato anche dall'odore che fuoriusciva dalla radio, eravamo a Calcutta. Qui siete tutti d'accordo? Sì, siamo tutti d'accordo. Siete tutti d'accordo, bene. Allora, abbiamo citato prima la figura di questo scapolone americano che ha tanti soldi da spendere in dischi e musica, eccetera. E quindi, come dicevi giustamente, Ottavia, prima, qua tutto si contamina, per cui, cioè tutto è una cosa all'influenza dell'altra, per cui andiamo ad ascoltare uno di quei brani, anche questo poi è un filone, cantato da, diciamo così, donne tigre, delle vere ammaliatrici. A proposito di Tica, nel 1953 Les Baxter scrive la sua prima colonna sonora cinematografica per il film Tanga Tica. Poi realizza numerosissime colonne sonore per film horror, collaborando anche con Mario Bava. Niente proprio di meno che. E allora andiamo ad ascoltare, lei si chiama Rosemary Clooney e il brano si intitola Come on My House, cioè lei invita esplicitamente il suo così, probabile partner a casa. I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you apple, plum, and every kind of thing. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you figs and dates and grapes and cakes. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you everything. Come on to my house, I'm gonna give you marriage ring and a pomegranate wine. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you peach and pear and I love your hair. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you East Egg. Come on to my house, I'm gonna give you everything, everything, everything. Come on to my house. E come si fa a non accogliere un invito del genere? Insomma, io sarei andato di corsa. Bene, che dici? Lei? Di lei che cosa diciamo? Non la conosciamo abbastanza. Una bellissima voce sicuramente, non delle più famose, diciamo così, nonostante l'interpretazione di questo brano. Dalla raccolta precedente. Andiamo su un altro brano, dopo aver... L'altra era Calcutta di Les Baxter. Ok. E questa è la traccia numero 4. E questa è la traccia numero 4, che è una, diciamo, è un brano che è presente anche nella colonna sonora di Four Rooms, il film con Tim Roth. Dicevi una colonna sonora sterminata. Ha tipo 27 o 28 brani. Noi però andiamo ad ascoltarlo in una versione, diciamo, diversa. Il brano, anche questo, non ai livelli del brano della colonna sonora di Colazione da Tiffany di cui parlavamo prima, ma anche questo è un brano che è stato reinterpretato mille e mille volte. Non credo però che l'avrete mai ascoltato esclusivamente col vibrafono. Thank you. Che versione, che dici? Che dite? Tutti i sciottini stiamo ascoltando, versioni di massimo un paio di minuti. Sì, ma è molto pop come genere musicale, quindi al massimo arriva a 3, 2, 2:40, 2:50 così. Ma poi un brano specialmente come quello che abbiamo appena ascoltato è veramente uno scherzo, quindi più di 2 minuti sì. sarebbero eccessivi, diciamo così. Niente, quindi tornando al discorso iniziale, potremmo spiegarlo, affrontarlo con tantissimi brani, ma in realtà la sintesi è quella che vi abbiamo proposto, diciamo, la ricreazione di immaginari, atmosfere e cose lontane, diciamo così. Io vorrei mandare un altro brano sulla traccia, diciamo, di quello precedente all'ultimo, il penultimo, perché lei è Peggy Lee, e anche lei, insomma, ha una voce e così una sorta di invito nel corso del brano a cui penso sia difficile resistere. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Hey, big spender. Time with me. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I can show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Time with me. Peggy Lee, intanto c'era un passaggio che ricordava molto New York, New York. Non sì. Era molto evidente la somiglianza, e Peggy Lee io la ricordo per una versione strepitosa di Fever. Sì, assolutamente sì. Vabbè, Peggy Lee ha fatto, ecco, Peggy Lee è veramente una delle più grandi, ed è assolutamente da non associare al discorso iniziale della eccetera eccetera, perché è di altissimo livello. Ha fatto molti, vabbè, ovviamente ci sono tantissime greatest hits, però i dischi che consiglio di cercare sono quelli tematici, cioè Peggy Goes Latin, sono tutte cose latin, mambo anziché jazz, soul, attraversato un po' i generi. È il discorso che facevamo prima della rilettura, che non è la cover, no? Quindi è interpretazioni, quindi in questo album fa tutte le interpretazioni in chiave, no? Mambo anziché latin, anziché eccetera eccetera. Lei è assolutamente un artista, diciamo, che chi non conosce dovrebbe conoscere, dovrebbe approfondire, insomma, Peggy Lee. Dopodiché passiamo a un cortocircuito, come dicevamo prima, tutto si contamina, per cui una musica nata non soltanto ma anche per essere il più possibile strumentale o comunque fare riferimento a cose assolutamente non di impegno sociale, come invece era il rock and roll, che scatenava il rock and roll, insomma, dico, come brano, come genere capostipite, con tutte poi le sue derivazioni, no? Che facevano impazzire i giovani. Però poi c'è stato il cortocircuito e quindi anche il rock and roll ha preso da questa cosa. E il brano si intitola King Kong, è furioso, assolutamente furioso, e ovviamente parla del grande scimmione, insomma, che è stato riproposto in tutte le salse con, no, tutti i film che conosciamo, alcuni di grande produzione, ma ce n'erano anche altre, e quindi anche a livello musicale c'era diciamo una sorta di King Kong, di B King Kong, come i B movie, se no c'è un filone King Kong, un filone diciamo scimmionesco, così. E il brano che andiamo ad ascoltare è un brano assolutamente scimmionesco e scatenato. Scatenatissimo questo King Kong, è partito un rumore, c'era qualcuno, qualche uccello coloratissimo nella foresta che ci ha fischiato. Bene, il prossimo brano è interpretato da una, non saprei neanche come definirla, perché è un personaggio quasi unico nella storia della musica. Stiamo parlando di Ima Sumac, la principessa Inca. Una principessa Inca, con una storia di vita, tra l'altro, incerta, perché di lei non si conosce veramente l'età, la data di nascita, esatto. Neanche dove è veramente nata. No, purtroppo avevo preso, eccola, sì, nata a Icosan. Così si dice, 13 ma anche... settembre 1922, è morta a Los Angeles nel 2008. È stata una cantante peruviana e negli anni 50 fu una delle più note esponenti della musica esotica. Ha venduto un sacco di dischi ed è stata, ha fatto una cosa unica, perché lei non aveva assolutamente schemi. Lei sfruttava il suo talento vocale incredibile, veramente poteva raggiungere delle frequenze altissime, anche basse. Estensione di 4 o 5 ottave. Esattamente. Si dice. E quindi diciamo era una virtuosa che si cimentava con brani che nessun'altra dell'epoca avrebbe potuto affrontare, semplicemente perché appunto i suoi vocalizzi erano incredibili, ha fatto brani veramente tantissimi e molto molto diversi tra loro, Però comunque la matrice rimane quella latin, assolutamente, insomma, dovendola mettere, diciamo, in un genere, possiamo dire che partendo dal latin lei poi ha sviluppato uno stile assolutamente suo. È presente in molte colonne sonore di molti film di tutte le epoche. Noi l'abbiamo mandata nella colonna la colonna sonora del Grande Lebowski. Ah. La nostra prima puntata. ed era un personaggio, no, Luciano? Perché dice che proprio cioè, si è creato un mito intorno a lei, su questo fatto che circolano molte voci sul fatto che se fosse una principessa inca diretta discendente dall'imperatore Atahualpa, e anche che non fosse peruviana bensì newyorkese o canadese, col vero nome di Amy Camus, di cui Ima Sumac è la lettura al rovescio. Insomma, è un personaggio curioso. Infatti prima quando ne avevi parlato nel tuo intervento precedente, a un certo punto stavo per interromperti quando hai detto peruviano, perché neanche quello è sicuro. Poi, ma magari sono delle speculazioni, tipo quelle in cui io non credo, che non so, che Elvis è ancora vivo anziché Paul McCartney. Non è vero che, ma questo è stato, cioè, visto, E comunque Elvis lei è stato visto. E sì, lei è molto legata alla Forte Prenestina. Io sapevo al Marani, ma un po' bevuto, però ci ho preso il caffè l'altro giorno. Era comunque molto legata alla tradizione popolare peruviana, no? Sì, anche. Diciamo che io, appunto, proprio per quello non sembrano molto credibili le relazioni che direbbero che anche quella cosa del suo personaggio è stata costruita. È vero che è un personaggio, è una persona che ha questo, però secondo me è un merito, cioè nel senso ha saputo costruirsi un mito, e ha saputo, perché grazie ad un'estetica e anche una presenza fisica, perché comunque se volete andarla a vedere su internet, insomma, trovate tonnellate di immagini su Ima, scritto con la YMA, Sumac, o Sumac come hai detto giustamente prima, e vedrete che appunto ha creato un'estetica, ha creato un mondo. La cosa molto bella di lei un'icona, sì, è che quale che sia la sua vera data di nascita o il paese dove appunto lei ha avuto i natali, non era non aveva una famiglia dietro, diciamo, era una vera self-made. E sottolineiamo allora con questa cosa che abbiamo detto, che non bisogna far parte di nessuna parte del mondo, effettivamente bisogna essere cittadini del mondo e condividere le proprie passioni e le proprie cose, non ci sono passaporti che poi identificano le persone che sono veramente potenti, e anche quelle che insomma poi alla fine non lo sono, ma lasciano comunque una traccia nella storia, no? Esattamente, sono d'accordissimo. Quindi la vogliamo ascoltare? Andiamo a far girare il suo 45 giri. Ascoltiamolo. Sì, anche perché stiamo passando al vinile, e questo apre un altro discorso che affronteremo. Away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away Bene, penso che abbia dato prova di sé. L'avete riconosciuto il suono magico? Tra l'altro la prima immagine sonora che viene alla mente è la versione di Tokens The Lion Sleeps Tonight. Assolutamente sì, per forza. Sì, assolutamente quello, no? Però ecco, abbiamo, non so quanto casualmente, un pochino casualmente sì, nel senso che c'erano vari brani da scegliere, abbiamo scelto questo. Penso che sia uno dei suoi brani in cui più che in altri si capisce il discorso che abbiamo fatto per introdurla, cioè quanto poteva essere inimitabile, perché doveva una persona con delle doti del genere avrebbe dovuto inserirsi, farsi schiacciare in un solo genere musicale. Ha creato il suo. E poi comunque era un vinile. Qui si apre il discorso a cui accennavo prima, perché intanto abbiamo rispolverato un piatto che qui in radio non veniva utilizzato da tempo Essere rispolverati più spesso. Tu ci facevi il discorso sull'educazione musicale, sulla differenza tra vinile e il digitale, che ha compresso i suoni e insomma fa ascoltare male la musica. Digitale fa ascoltare la musica e comincia ad essere una cosa provata anche scientificamente, perché diciamo che è un po' come se noi guardassimo sempre e solo foto piccoline compresse e che poi ingrandendole spixella, non si vede più niente. E questa è la musica che stiamo ascoltando noi e tutti, io compreso, perché comunque pure io alla fine l'ascolto tante volte da YouTube, e in realtà quello è un livello che neanche la radiolina con cui sentivamo le partite, manco tutto il calcio minuto per minuto, c'aveva un livello così basso. Ma sai, Luciano, che noi durante le trasmissioni che ormai facciamo da un anno e qualcosa in più abbiamo sempre, insomma, organizziamo, non come oggi che sei arrivato qua e fatto l'anarchia, ma organizziamo delle scalette, delle playlist con David, e spesso qualche brano non lo troviamo. Allora io dico sempre a David: dai David, prendiamo da YouTube, e lui si arrabbia, dice: no, allora non lo mettiamo, non si può fare, Ottavia, no, la musica è rovinata così. Ed è vero, io perché sono una facilona e una cialtrona mi va bene tutto, però è vero, è proprio così come dite voi. È assolutamente così, almeno se te lo dico io, che non sono uno di questi maniaci del vinile così. Ovviamente colleziono ovviamente è ovvio che amo il vinile, però se un brano non lo trovo in vinile lo prendo in CD, è lo stesso. L'importante è che il CD sia originale, della casa discografica originale, che per certi versi non ha il suono del CD non ha il calore del vinile, ma è anche vero che per ascoltare quel vinile, quel calore, ci vogliono impianti hi-fi di un certo livello, in mancanza dei quali un CD vero, ufficiale, diciamo così, non copiato, non scaricato, non masterizzato, ha un suono pregevole e insomma ci stanno tutte le frequenze dentro. Ho fatto l'esempio della fotografia, il CD come il vinile lo puoi ingrandire come un manifesto 6x3 e si vedrà sempre in maniera nitida, mentre appunto noi e comunque tornando al no, c'era una cosa che avevi detto molto interessante, mi sono perso. Cosa, stranamente ho detto una cosa interessante, io non dico mai cose interessanti. Vabbè, diciamo che hai detto, mi hai fatto uno spunto. Allora non la ripeto. Aiuto. No, appunto, che questa cosa che hai detto giustamente, facciamo tutti, no? Questa cosa, perché poi di mandare, così come tu dici, vabbè dai, mandiamolo da YouTube, anch'io sto al computer, ma mi sono talmente impigrito che magari non mi alzo e non vado a metterlo sullo stereo, poi dopo 5 minuti, ma che sto ascoltando, vado un po' più in là nella stanza e metto un disco o un CD, insomma, che problema c'è? Perché devo, però ammettiamolo, oramai lo facciamo tutti. Bisogna pensare, questo è un grande spunto di riflessione, noi abbiamo il termine di paragone, e quindi ci sforziamo di tornare, di fare lo sforzino di alzarci, di metterlo da lì. Il problema è chi è nato, i cosiddetti nativi. Guarda, non me ne parlare, ho un figlio adolescente, è un problema veramente molto grosso. Mia nipote di 5 anni al prossimo compleanno riceverà una valigia fonodisco, perché volevamo prenderle il mangiadischi, ma solo i 45 giri non è abbastanza. Zio c'ha tutta la collezione Disney, quindi non un iPod. Ok, benissimo. No, quindi voglio dire, non è il discorso, non stiamo facendo il discorso. Ti ricordi, lo sono quei giradischi che avevamo quando eravamo ragazzini, quelli piccoli piccoli fatti a valigetta. Io sono stato che ci mettevamo. Io sono stato più fortunato. Io sono stato ancora più fortunato. Avevo uno giallo io. Quelli erano bellissimi, fondamentali, capisco tutti voi che l'avete visto, ma io a 4 anni ho potuto fare un salto di qualità. Ed è lo stesso che vogliamo fare a mia nipote, cioè bellissimi quelli che abbiamo usato tutti, il mangiadischi, però era limitato al 45 giri. Sì. Siccome zio Luzzi ha una collezione di LP insomma discreta, tra Disney, Zecchine d'Oro, favole eccetera eccetera, e bisogna dare a questa bimba anche l'album, non solo il 45 giri, certo, e quindi prenderò una, diciamo, come una fonovaligia piuttosto robusta, sperando. Come si chiama la tua nipotina? Ludovica. La salutiamo, sei una bambina fortunata. Bene, siamo tornati da dove avevamo iniziato con il nostro Martin Denny, che insomma ci ha riportato, diciamo, di nuovo nelle foreste, nella giungla iniziale. Ho voluto farvelo ascoltare sia per chiudere il discorso, sia perché questa era molto molto, è uno dei brani suoi più rappresentativi, ed era giusto chiudere, andare verso la chiusura con questo brano. Ci dicevi nuovamente sul vinile. Sì, allora dicevo in breve, cioè lasciate perdere tutti i discorsi dei nostalgici del vinile, perché il vinile. L'importante è non addormentarsi, non prendere questa cattiva abitudine che abbiamo preso tutti di ascoltare la musica attraverso il telefonino, attraverso le cuffiette, e soprattutto se avete i figli, i nipoti, cercate di educarli, perché ce li stanno rovinando per sempre. Pensate, se fossimo nati noi con questo tipo di mezzo a disposizione, saremmo esattamente come loro, che poi ti regalano un iPod meraviglioso. Ci posso mettere dentro 150.000 milioni di brani, che figo, ma non ce n'è manco uno che si sente, però va bene così. Cioè, no, è una cosa proprio tecnica, fisiologica, non è anche la nostra. Anche culturale, insomma. Culturale, ma non musica, è solo. La musica ha una profondità che, cioè, non è soltanto quella diciamo, di nome, ma anche a una profondità che è evocata proprio dalla sonorità, e una sonorità è data soltanto da certi strumenti. Esattamente, tutto quello che dici è diciamo, la tua parte sentimentale di cui hai parlato ha bisogno di un mezzo tecnico adeguato, perché se il mezzo tecnico non è adeguato, quella passione, quella cosa che hai detto te. E poi l'importante è sempre sapere che c'è una cosa e ce n'è anche un'altra, perché se si conosce soltanto una realtà, no? Okay, è comunque una conoscenza limitata. E quindi se vai a correre e ti vuoi portare le pod, va benissimo. O il giradischi è un po' più scomodo, però la senti meglio la musica. Se stai sul treno, c'hai il portatile, c'hai il palco, c'hai quello che c'hai, te la vuoi sentire così, va bene. L'importante è che però a casa tu abbia un impianto decente e ti sforzi di ascoltare la musica da lì, non quello che sento dire da tantissime persone: ah, ma io oramai ho detto col computer sento i bassi. Non si sente, mancano più totalmente delle frequenze. Con David proprio impazzisce. Ma anche in cuffia, quando tu le sei, anche a me fanno sentire pochissimo tempo fa nipotino di una mia amica, 14 anni, senti, no, ma queste sentono benissimo, tipo le cuffie ha pagato tipo 250 euro, una cosa. In effetti si sentiva bene, ma è compresso, cioè lì dentro quella cuffia disegnata per quel pod, per quelle frequenze eccetera eccetera, suona benissimo. Se tu attacchi quel telefonino, cioè il filo della cuffia, lo togli, lo metti in un impianto con le casse che suona grande, sentirai malissimo, perché torna al discorso di prima delle fotografie. Vabbè, ci dicevi dell'alta fedeltà, dell'esordio dell'alta fedeltà negli anni che esatto, stiamo così concludiamo il discorso del Bachelor e di tutti quei mondi di cui abbiamo parlato all'inizio, di queste feste incredibili, esotica dal punto di vista estetico, ma nello stesso tempo che per la prima volta vedevano la possibilità da parte delle persone di ascoltare musica forte, bene, con una qualità eccezionale che fino a quel momento non era stata possibile. Ora appunto, con la disponibilità economica che c'è, il boom economico negli Stati Uniti, il fenomeno dell'alta fedeltà nasce e comincia a prosperare, al punto che poi deborda e arriva fino a tutto l'Occidente, diciamo tutta l'Europa. Il mio impianto, per esempio, quello che dicevo prima, che avevo a 4 anni, in realtà era quello di mio papà, che era un totalmente economico e alla portata di tutti, perché faceva parte, lo si poteva acquistare a rate con Reader's Digest, che era questo fenomeno incredibile di un'enciclopedia di bassissimo livello americana, che però erano riusciti a vendere in tutto il mondo, anche in Italia un sacco di gente la comprava, e vabbè, in omaggio insomma c'era questo stereo, che per me ha avuto il grande pregio di appunto di non limitarmi al 45 giri, ma di poter usare, di farmi poter usare anche gli album pure da piccolo, perché poi era completamente automatico. Tu basta che appoggiavi il disco, quando mettevi start il braccio partiva da solo, tornava indietro da solo, e quindi neanche una cosa super moderna, no? La cosa bella da aggiungere, che stavamo dicendo prima mentre vi facevamo ascoltare il brano, sono le istruzioni per l'uso, che sono dettate da una totale passione che chi vende amore, cioè chi vende questi dischi ovviamente lo fa per soldi, ma lo fa con una coscienza, lo fa con una capacità eccezionale, come un artigiano che poi a un certo punto si ingrandisce, ma conserva il suo stile, conserva quanto ci tiene alla qualità, una sorta di Enzo Ferrari della musica. Ha fatto un sacco di soldi, però non gli si può negare che quello è stato il compimento della sua passione iniziale, no? Cioè non faceva le 500, voleva fare le cose fighe. L'hi-fi è questo, cioè sono persone che hanno amore per la musica, e quindi anche prendevi i dischi, per esempio stampati dalla RCA anziché da grandi compagnie, c'erano delle semplificazioni grafiche carinissime, molto semplici da capire, su come si prende il disco al di fuori della busta, assolutamente non toccarlo con le dita, pulirlo con questo, pulirlo con quello, non conservare, insomma tutta una serie di istruzioni, e poi c'era insomma l'esortazione, cioè perché questo disco vi durerà per sempre. Noi adesso abbiamo ascoltato cose che provano questa cosa, perché questi dischi sono della fine degli anni 50, primi anni 60, e si sentono benissimo, perché sono stati conservati appunto in quel modo. Quello della stereofonia, e poi chiudiamo, che si sviluppa appunto con l'alta fedeltà, è una vera e propria mania, ma anche perché è una cosa nuova che la gente non aveva mai conosciuto prima. Prima noi conoscevamo il suono mono, invece la stereofonia ci porta un canale destro e un canale sinistro, che adesso sembrano cose scontate, ma all'epoca era la novità totale. Ti devi sedere lì, no, devi venire un po' più indietro, no, vedi che incrocia là. Questi erano discorsi pure a casa mia, perché bisognava stare esattamente a metà tra i due canali, eccetera eccetera. Senti, l'ha detto pure, no? Perché c'erano anche i dischi diciamo con le istruzioni per l'uso, che sono proprio quelli che andiamo ad ascoltare adesso. Senti, con cosa ci salutiamo, Luciano? Ci salutiamo con le istruzioni per mantenere bene i vostri dischi. E prima di salutarci però vorrei dare le coordinate per sostenere la radio, che sono altrettanto importanti e da tenere con cura come i vinili che avete a casa, e sono il conto corrente postale 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 5600185, Roma. Potete sottoscrivere anche attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, cliccando sul pulsante sostieni. È facile, potete inserire la vostra carta di credito e fare una sottoscrizione. La radio ha bisogno di aiuto in un momento difficile, è libera e senza padroni e vive senza pubblicità dal 1977, se volete che continui a trasmettere e a farvi compagnia, dovete, se potete, sostenerla. Ci sentiamo una delle prossime puntate, giusto? Beh, la prossima direi, per dare un seguito. Oppure no, decidete voi ovviamente. Va bene. Decidete voi. Comunque ce ne sarà un'altra. Sì. Almeno un'altra, perché insomma, dopo aver ricevuto l'invito, mi sono messo a preparare un po' di cose che sono risultate decisamente troppe per un'ora sola. E possiamo preannunciare il tema indipendentemente da quando sarà? Vai. Saremo in Italia, il livello qualitativo della musica sarà altissimo, perché saranno presenti i maestri da Morricone, Nino Rota, Umiliani, Piccioni, eccetera eccetera. Bene, giovedì prossimo vai. E sarà presente ovviamente molto cinema, a differenza di oggi. A giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, indirizzo di posta elettronica, tracce di cinema @ondarossa.info. Caro amico, ora lei ha davanti a sé il fonografo stereofonico di selezione da Reader's Digest. Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto dono: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio. Lei è abituato ad ascoltare un treno in corsa con la normale tecnica riproduttiva all'incirca in questo modo. Con la nuova tecnica stereofonica potrà ora ascoltare lo stesso rumore come viene da lei realmente percepito quando un treno le passa davanti. Sperimentiamo ora un analogo esempio su una pista per birilli. Prima udrà il rumore come l'ha sentito finora, cioè monofonico o monoaurale. In riproduzione stereofonica, lei udrà invece con massima chiarezza e distinzione la boccia rotolare da destra a sinistra e viceversa. Ed eccovi un rumore assai noto, quello di una partita di ping pong, da prima come l'avete sempre ascoltato finora. Quindi in riproduzione stereofonica. Può udire distintamente la pallina di celluloide rimbalzare alternativamente una volta a destra, e una volta a sinistra. A questo punto lei potrà osservare che con i rumori tutto va bene e funziona egregiamente, ma si chiederà quale effetto fa l'ascolto della musica.